I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Ormai dovrebbero averlo capito anche i sassi, la crescita economica italiana, europea, anche complessivamente quella a livello mondiale, sarà deludente nei prossimi mesi. Ieri è arrivato di nuovo l'Istat a ricordarci che la crescita in Italia si è interrotta e che i prossimi mesi saranno ancora deboli, ma nei giorni scorsi ci avevano pensato Fondo Monetario, Bruxelles e non ultimo il G20 a ricordarci tutte le incertezze che aleggiano sulla crescita in questo finale d'anno. E se qualcuno avesse voluto avere una conferma, anche l'indice che misura l'attività del settore manifatturiero e dei servizi a livello europeo è calato nel mese di agosto ai minimi da 19 mesi a questa parte, includendo in questo calo anche la Germania. Insomma, diciamola tutta, i medici sono abbastanza d'accordo, il consenso è abbastanza unanime sulla debolezza fisica del paziente. Il problema è quale terapia o medicine somministrare. È chiaro che in questo momento la palla è prevalentemente di carattere politico e la rappresentazione anche iconografica del G20 non rincuora. Accanto a un leader americano agli ultimi mesi del suo mandato sedevano infatti il leader francese Hollande, che ha perso il suo ministro dell'economia perché è andato a fondare un nuovo partito, Angela Merkel, che ha perso le elezioni regionali in Mecklenburgo, e un Matteo Renzi alle prese con un esito tutt'altro che scontato sui referendum. E sarà un caso, ma l'unica richiesta concreta nel corso dei G20 è arrivata proprio al paese che sembra politicamente più stabile. Mi riferisco all'accordo sulla limitazione della produzione dell'acciaio ottenuto dalla Cina. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Che cosa succederebbe alla Germania se perdesse Berlino e all'Italia se perdesse Roma o Londra se uscisse non dall'Unione Europea ma dall'Inghilterra? Beh, è difficile dirlo sicuramente sul piano sociale, ma sul piano economico qualcuno ci ha provato ed è stato l'Istituto di Colonia per le Ricerche Economiche, uno dei più accreditati think tank tedeschi e in generale europei. Ebbene, questo centro di ricerca è andato a vedere che cosa accade alle economie nazionali europee nel caso in cui perdessero le capitali. Per quanto riguarda la Germania, e questa è la sorpresa più grossa che viene dallo studio, addirittura il prodotto interno lordo tedesco, la ricchezza nazionale prodotta, salirebbe dello 0,2% togliendo la capitale. Nel caso di Roma, la caduta del prodotto interno lordo italiano invece sarebbe soltanto del 2,1%, la contrazione più piccola fra tutte le capitali europee. Quella che colpisce di più è Londra, meno 11,2%, togliendola dall'Inghilterra. Per quanto riguarda le altre curiosità, meno 15% il prodotto interno lordo francese senza Parigi, e per quanto riguarda la Spagna, i nostri concorrenti eterni, la Spagna perderebbe il 6% della propria ricchezza nazionale se Madrid decidesse di uscire o staccarsi o venisse cancellata in toto. È chiaro che si tratta di un esercizio di fantasia, un po' un gioco per vedere il peso della burocrazia sulle economie nazionali, ma certamente è emblematico che Roma, pur avendo sede di tutte le grandi imprese pubbliche, le società con grandi fatturato e grandi occupati, bene, togliendola dall'Italia, l'impatto sarebbe relativamente esiguo. Come dire, è evidentemente il peso della burocrazia che schiaccia i nostri conti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.